Con Emanuele Bilotta, autore e regista dello spettacolo Genova 2001, una storia italiana, che sarà in scena a Roma al teatro Hamlet il 12 ottobre. Emanuele, ben trovato. Eccoci qua, buonasera a tutti. Sì, la scena il 12, il 13 e il 14, abbiamo tre repliche, il 12 debuttiamo e poi continuiamo pure sabato e domenica. Dal 12 al 14, benissimo. Ce lo descrivi? Sì, diciamo che è uno spettacolo che parla appunto dei giorni del G8 2001, parte dai primi giorni, quindi parte dallo scontro, diciamo, preannunciato da tutte le voci che a distanza sono arrivate tra polizia e Black Bloc, su come sono stati addestrati i poliziotti per preparati i poliziotti per quei giorni, su come si sono preparati i Black Bloc per quei giorni. Da lì in poi diciamo, andiamo avanti nel racconto, passando a parlare di Giuliani, a parlare della notte nelle scuole Diaz e di Bolzaneto. Diciamo uno spettacolo dove più che raccontare in maniera documentaristica quello che è successo, che penso che in 17 anni sia stato snocciolato in tutti i modi possibili, si trova di tutto e di più sull'argomento, e siamo andati proprio a cercare di vedere gli elementi psicologici che poi sono scattati all'interno di queste dinamiche, quindi quello che si voleva ottenere e quello che poi si è ottenuto facendo determinate scelte in quei giorni. Su cosa vi siete basati nella scrittura? Questo spettacolo è un prosieguo di uno spettacolo che abbiamo portato in scena nel 2016, che si intitolava Incubo di una notte di mezza estate, che era proprio un focus sulle scuole Diaz. Abbiamo scelto di riprendere questo argomento e di rilavorare su uno spettacolo che parlasse di questo perché diciamo che molte delle dinamiche che si sono presentate in quei giorni le stiamo vedendo svilupparsi sempre di più negli anni a seguire. Tutto ciò che i No Global avevano in qualche modo cercato di denunciare, cercato di portare alla luce delle persone, si è poi rivelato vero. La scrittura del testo è nata proprio con l'obiettivo di mostrare l'altra faccia delle cose, diciamo, proprio tutto ciò che c'è dietro. Infatti c'è un personaggio, diciamo, lo spettacolo si divide in due livelli, c'è un corpo unico formato da sei attori che vivono l'esperienza di Genova dall'inizio alla fine come gruppo, e poi c'è una settima presenza che non è ben definita, ma è una presenza che collega un po' il tutto e controlla il tutto. E lì proprio, diciamo, l'obiettivo di base era mostrare come fondamentalmente all'interno di una situazione del genere tutti sono stati burattini. Burattini sono stati, burattini nelle mani, diciamo, di chi gestiva la cosa, sono stati sia le vittime ma anche gli stessi carnefici, perché anche gli stessi poliziotti si sono rivelati fondamentalmente poi dei burattini nelle mani di chi voleva ottenere determinate cose. Com'è stata la costruzione dello spettacolo? Come l'avete pensata la messa in scena? Oserei dire che la messa in scena è molto cinematografica, nel senso che di raccontato c'è veramente poco, la storia emerge da quello che succede e l'obiettivo è appunto più che far arrivare i fatti, far rivivere alla gente l'esperienza che può essere stata la manifestazione di piazza, cioè c'è una scena dove comunque andiamo proprio a ricostruire i toni, i colori della manifestazione di piazza, come è stato la sera del concerto di Manu Chao, quello che è stato Don Andrea Gallo che serviva le bottigliette d'acqua sotto al palco, e come poi far rivivere sulla pelle quello che è stata l'esperienza della morte di Giuliani, quindi per gli stessi manifestanti questo tappare la bocca con la violenza. Ma sono tutte cose che non vengono raccontate, ma che cercheremo di far arrivare a livello emotivo. Questa cosa l'avevamo provata appunto nello spettacolo sulle scuole Diaz, cui praticamente abbiamo scelto, e anche in questo spettacolo sarà riproposto nel capitolo che parlerà delle scuole Diaz, perché lo spettacolo è diviso in capitoli, e diciamo quindi il capitolo che parlerà delle scuole Diaz sarà senza luci di scena, ci saranno solamente delle torci utilizzate in scena con cui gli attori verranno illuminati e stimolati in determinati modi, quindi cercare di far ricreare, di far rivivere anche lo stesso senso di claustrofobia che hanno vissuto i ragazzi che poi stavano lì dentro. E devo dire che forse la più grande soddisfazione che posso dire di aver avuto, e gli attori possono dire di aver avuto nello spettacolo precedente, era proprio che in vari contesti in cui lo abbiamo portato, sia a Roma al Nuovo Cinema Palazzo, oppure anche a Genova, abbiamo portato al Centro Sociale Buridda, e c'erano diverse persone che erano state all'interno della scuola, ed è stato bello, nel senso, comunque è stato qualcosa che ci ha reso orgogliosi, il fatto che loro stessi ci hanno detto che hanno rivissuto sulla loro pelle quello che è stato. Quindi l'obiettivo non è tanto di raccontare, ma di portare lo spettatore in un viaggio di un'ora e mezza in cui può vivere sulla propria pelle il bello e il brutto di quella settimana. A vostro avviso, cosa ha comportato quella tragica pagina di storia italiana a quasi 20 anni di distanza? Si dice tanto che nel 2001 il crollo delle torri ha portato in qualche modo a cambiare la faccia del mondo, ma secondo me la faccia del mondo era cambiata prima, era cambiata qualche mese prima con questo G8, perché comunque penso sia stata veramente la chiara espressione di come manifestare sia sempre sbagliato, avere la propria idea sia sempre sbagliato, di come bisogna per forza adeguarsi. E questo penso si può percepire non solo dai cattivi, tra virgolette, ovvero da coloro che poi hanno perpetrato questo tipo di violenze, ma proprio da un'opinione pubblica che ancora oggi non è riuscita a capire l'importanza che avesse avuto la formazione di un movimento come quello No Global, che per la prima volta dopo tanto tempo era riuscito a creare un coro di voci immense che parlava e manifestava di cose che poi purtroppo nei 20 anni successivi abbiamo visto che si sono rivelate vere, e oggi ci troviamo a piangere di problemi insormontabili per il mondo quando 20 anni fa, come dicevano giustamente No Global, potevamo salvarci se uno ci avesse pensato prima. Ci lasci i riferimenti web per saperne di più sulla compagnia, sullo spettacolo e su queste date? Sì, allora su Facebook c'è proprio l'evento che si chiama appunto Genova 2001, una storia italiana, e lì potete trovare sia due video promo che sono stati fatti, un making of che è stato fatto durante le prove, varie informazioni, foto, oltre che appunto le date, le indicazioni del teatro. Quel teatro è un teatro molto bello in zona Migneto, il teatro Hamlet, quindi una grande conquista, perché parlare di un argomento come il G8 dentro un teatro ufficiale, non dentro un centro sociale, è una grande opportunità, perché anche Vittorio Agnoletto l'ho sentito in occasione del primo spettacolo e mi ha proprio augurato mi ha detto: io ti auguro che questo spettacolo possa girare nei teatri, perché lui con Lorenzo Guadagnucci avevano scritto uno spettacolo l'anno dopo i fatti, e praticamente gli hanno annullato tutte le date che erano riusciti a fissare e sono dovuti poi andare appunto nei centri sociali, dove però la gente che c'è non è molto da convincere, cioè nel senso è bene che questo spettacolo e questi argomenti vengano trattati in teatri istituzionali. E quindi questa per me è una cosa importante. Ricordiamo l'appuntamento con Genova 2001, una storia italiana, a Roma, al Teatro Hamlet, dal 12 al 14 ottobre. Un saluto e un ringraziamento all'autore e regista Emanuele Bilotta. Emanuele, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Alla prossima, grazie.